Non si deve negare però che queste proprietà della liturgia presentano a ogni uomo, specialmente a quello d'oggi, grandi difficoltà. Egli, specialmente quando ha un temperamento indipendente, vuole che la preghiera sia espressione immediata del suo stato d'animo. E invece egli deve accogliere un mondo di pensieri, preghiere, azioni religiose come espressione della sua vita interiore, espressione che nella sua universalità gli riesce troppo ampia, che perciò non gli si confà. La sente di conseguenza fredda, quasi vuota, e di questo ha particolare consapevolezza quando la confronta con una preghiera che irrompe con freschezza sorgiva dell'animo. Le formule liturgiche non conquidano immediatamente, come farebbero le parole di una persona spiritualmente affine. Gli atti liturgici non parlano così immediatamente come i movimenti irriflessi di commozione in una persona dal temperamento simile al nostro. I moti del cuore nella liturgia non trovano una rispondenza così facile come uno slancio religioso che sale spontaneo dall'anima. Specie all'uomo moderno, che è così sensibile a tutto ciò che riguarda la vita individuale e che dovunque cerca il profumo della terra e in ogni cosa guarda al tono personale, proprio all'uomo moderno, queste forme limpide susciteranno facilmente l'impressione del gelo. Costui facilmente troverà schematiche le parole e i gesti freddamente regolamentari. Può così avvenire di frequente che egli si rifugi in preghiere e pratiche devote, che rimangono molto inferiori in valore religioso alla liturgia, ma che però ai suoi occhi sembrano presentare un pregio, quello di scaturire dal proprio tempo oppure dall'anima di persone spiritualmente affini. Chi vuol poi abbracciare questo problema in tutta la sua ampiezza, deve rilevare come la figura del Signore si presenti nella liturgia e come invece si presenti negli Evangeli. In questi tutto è vita individualizzata. Il lettore respira il profumo della terra, avverte i segni di un determinato tempo, vede Gesù camminare per le strade, muoversi tra la folla, ascolta le sue parole inimitabili e così convincenti. Le sente riversarsi da cuore a cuore. Tutto l'incanto di ciò che è storicamente vivo è diffuso intorno alla figura del Signore. Egli è veramente uno di noi, una determinata persona, proprio Gesù, il figlio del falegname che abitava a Nazareth, in quella determinata contrada, portava quel certo vestito, parlava così e così. E questo è proprio ciò di cui l'uomo moderno è assetato. Questo è ciò che lo allieta tanto profondamente, il fatto che in questa figura storica abita tuttavia la divinità eterna e infinita in forma viva, personale, essenzialmente unita, così che egli è vero Dio e vero uomo, nel senso più pieno della parola. Quanto diversamente ci parla nella liturgia la figura di Gesù. Qui egli è il mediatore pieno di maestà tra Dio e l'uomo. L'Eterno Supremo Sacerdote, il Maestro Divino, il Giudice dei vivi e dei morti, colui che è celato nel sacramento, colui che nel suo corpo stringe in modo misterioso tutti i fedeli nella grande comunità di vita nella Chiesa, il Dio uomo, la parola che si è fatta carne. Così egli si presenta nella Messa, così nelle preghiere liturgiche. L'umano, involontariamente viene sulle labbra l'espressione teologica, la natura umana è certamente del tutto salvaguardata. Le lotte contro Eutiche non vennero combattute invano. Egli è vero e perfetto uomo, con anima e corpo, e realmente ha vissuto, ma del tutto trasfigurato in gloria dalla divinità, investito dalla luce dell'eternità, sottratto alla storia, al di là del tempo e dello spazio. Egli è il Signore che siede alla destra del Padre, il Cristo mistico che continua a vivere nella sua Chiesa. Si obietterà che nei Vangeli delle Messe si legge pure l'intera storia della vita di Gesù, certamente. Se si cerca però di percepire con attenzione e di immedesimarsi nell'azione, questi racconti appaiono illuminati in una maniera particolare dal complesso in cui si trovano. Essi sono un brano della messa, del Mysterium Magnum, immersi nel sacro mistero, inseriti nel complesso della corrispondente officiatura domenicale del proprio tempo, nel grande sistema dell'anno liturgico, trascinati dal moto possente verso l'aldilà che pervade l'intera liturgia. Così ciò che si contengono viene parimenti stilizzato. Noi li udiamo nel linguaggio straniero e li sentiamo cantati in tono corale. Vien da sé di badare non tanto ai tratti particolari che si contengono, quanto al significato eterno sovrastorico che hanno. Con il che però la liturgia non ha falsificato la figura evangelica di Cristo, come per esempio il protestantesimo rimprovera alla Chiesa. Con questo essa non ha posto in luogo del Gesù vivente una rigida immagine concettuale. Già gli Evangeli lasciano emergere ciascuno secondo lo scopo particolare della propria narrazione, più vigorosamente ora questo, ora quello aspetto della personalità e dell'azione di Gesù. E di fronte alla figura dei sinottici, che lo rappresentano a preferenza nella sua realtà umilmente umana, emerge già nelle lettere di San Paolo il Signore che misticamente continua a vivere nella sua Chiesa e nell'anima dei credenti. Il Vangelo di San Giovanni mostra la parola che si è fatta carne, e infine l'Apocalisse ci tratteggia il Signore nella sua gloria eterna. Ma neppur qui è esclusa la sua realtà umana e storica, bensì è sempre presupposta e abbastanza di frequente espressamente sottolineata. La liturgia non ha dunque fatto nulla di diverso da quanto fece la stessa Sacra Scrittura. Essa, senza sacrificare neppure un piccolo tratto del Cristo storico per i suoi speciali intenti religiosi, ha messo in rilievo maggiormente il sovratemporale nella sua figura, poiché la liturgia non è una semplice commemorazione di quanto un giorno fu, bensì un vivo presente, è la vita permanente di Gesù Cristo in noi e dei credenti in Cristo, nel Cristo uomo Dio eternamente vivente. Ma appunto perciò perdura la difficoltà spirituale, ed è bene metterla in chiara luce. Specialmente l'uomo d'oggi la sente in modo acuto. Più di uno, ubbidendo al suo primo impulso, sacrificherebbe il più luminoso concetto teologico pur di vedere Gesù camminare per le strade, pur di percepire con quale accento si rivolgeva ai suoi discepoli, e rinuncerebbe alla più splendida preghiera liturgica qualora potesse udire come Gesù gli rivolgerebbe il discorso e potesse dire allo stesso Gesù una parola dal profondo del cuore in un vivo colloquio diretto. Dove si trova il motivo che permette di superare queste difficoltà? Nella constatazione che non è affatto permesso contrapporre la vita religiosa individuale, con tutta la sua personale determinatezza, alla vita liturgica con la sua stilizzazione. Non si può imporre questo o quest'altro, bensì l'uno e l'altro in viva collaborazione. Nella preghiera individuale noi ci eleviamo a Dio con le peculiarità del tutto singolari del nostro essere e usiamo le parole che proprio le nostre disposizioni e le nostre esperienze ci suggeriscono. Questo è un nostro buon diritto che la Chiesa è l'ultima a volerci contestare. Qui noi viviamo la nostra propria vita, noi siamo per così dire soli con Dio. Qui Egli è proteso verso di noi così come verso nessun altro. Qui veramente Egli è per ciascuno proprio il suo Dio, poiché questo appunto costituisce la infinita ricchezza di Dio, che Egli può essere per ognuno il suo Dio, a ognuno nuovo, non appartenente all'uno allo stesso modo che all'altro. Il linguaggio che usiamo qui s'adatta perfettamente a noi e molte delle sue parole verosimilmente valgono solo per noi. Le possiamo pronunziare tranquillamente perché Dio le comprende e all'infuori di Lui non v'è persona alcuna che debba comprenderle. Ma noi non siamo soltanto esseri individuali, facciamo parte anche di una comunità. Non siamo solo storia, bensì qualcosa di noi appartiene anche all'ordine intemporale. È a quest'ultima esigenza che provvede la liturgia. In essa noi preghiamo come membri della Chiesa. In essa ci eleviamo al regno eterno che è al di sopra dei singoli e perciò a tutti accessibile, a tutti i temperamenti, a tutte le età, a tutti i luoghi. Ma per quest'ordine di cose lo stile della liturgia, oggettivo, limpido, accessibile a tutti, è anche l'unico possibile. Ogni altra forma di preghiera che procedesse da una sensibilità speciale riuscirebbe di sicuro inaccessibile a chi possedesse una sensibilità diversa. Soltanto uno stile della vita e del pensiero che sia veramente cattolico, vale a dire universale, oggettivo, può essere accolto da ognuno senza sospetti di violenza spirituale. Non è certo con ciò escluso ogni sacrificio. Ognuno deve farsi violenza, deve superarsi, ma in tal modo egli non si perde, bensì al contrario si fa più libero, più ricco, più versatile. Ambedue le forme di preghiera devono svolgersi in mutua armonia, giacché stanno in vivo rapporto scambievole. L'una riceve fecondità e luce dall'altra. Nella liturgia l'anima apprende a muoversi nell'ampio mondo delle realtà religiose oggettive, e qui essa acquista, se è lecito il paragone, quella libertà, quella contenuta nobiltà di atteggiamenti e movenze interiori che impara nell'ambito delle relazioni puramente naturali quando frequenta una società veramente distinta di persone che si comportano secondo un'antica tradizione di correttezza sociale. Si educa a quella ampiezza di sensibilità e limpidezza di espressione spirituale che è il risultato di un intimo commercio con le grandi opere d'arte. In poche parole, l'anima nella liturgia acquista il grande stile della vita religiosa, cosa questa che non si può mai apprezzare abbastanza. D'altra parte, proprio la Chiesa non si stanca mai di ammonire, e lo mostra l'esempio dell'ordine vivente nella liturgia, che accanto alla vita liturgica deve esplicarsi non meno fervida la devozione privata, nella quale l'anima si abbandona tutta così com'è nelle sue disposizioni particolari, il che col tempo conferisce anche alla sua vita liturgica calore e colorazione personale. Se la devozione personale mancasse, se la liturgia fosse l'unica forma della vita religiosa, questa rischierebbe facilmente di diventare un freddo sistema di cerimonie, ma se vien meno la liturgia, le conseguenze non devono essere meno fatali.